Brutto giorno di Simone Spezia. Una decina di arresti per l'omicidio della giornalista maltese avvenuto lo scorso ottobre. Iniziano le esercitazioni, Stati Uniti, Corea del Nord, Corea del Sud al confine, 12.000 i militari americani. Torna la tensione nelle zone terremotate, scossa superiore ai 4 gradi nel Reatino. Calcio, Inter in vetta e Milan sconfitto. Nuoto paralimpico, l'Italia è già a 13 medaglie. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, come sempre il numero per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, e come sempre c'è anche la diretta Facebook. Ci potete vedere dunque, oltre che ascoltarci, e se volete potete commentare anche sulla diretta Facebook, la trovate sulla pagina di Radio 24 e su quella di Effetto Giorno. Dall'altra parte del vetro Paolo Corleoni in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione. Dunque iniziamo dalle cronache da Malta, dove ci sono stati 10 arresti per l'omicidio della giornalista uccisa in ottobre. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. È un primo passo in avanti nell'inchiesta sull'omicidio di Doriana Caluana, la blogger che accusava i potenti e che svelava il giro di corruzione soprattutto all'interno del mondo politico maltese. Una decina le persone arrestate in una maxi operazione questa mattina sull'isola di Malta, quanto ha raccontato in una conferenza stampa lo stesso premier, che era stato uno degli obiettivi delle inchieste della giornalista. Nei giorni scorsi, dopo il suo omicidio, ricordiamolo, avvenuto con un'autobomba, un gesto clamoroso che ha fatto il giro del mondo, centinaia di persone erano uscite in piazza a Malta per chiedere le dimissioni anche del procuratore generale. Oggi questa prima risposta con gli arresti, ma si tratta per ora solo degli esecutori materiali di questo omicidio, persone in parte anche già note alle forze dell'ordine maltesi. Il vero passo in avanti, la vera svolta nell'inchiesta si saprà nel momento in cui sarà chiaro chi abbia ordinato di mettere a tacere la giornalista che dal suo blogger svelava i giri di corruzione, di connivenze e anche i giri di traffici di droga sull'isola. Simone. E grazie dunque a Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Prima ancora di andare a tutti gli altri argomenti, perché so che quando si tocca il calcio è sempre un disastro, abbiamo detto per errore, me ne prendo la responsabilità, nel titolo che il Milan è stato sconfitto, no, ovviamente ha pareggiato, diciamo così, che il gol al 94esimo con un gol del portiere ci ha un po' confuso le idee. Il Milan effettivamente ha pareggiato, ci arriveremo tra poco, non vi preoccupate, restiamo all'estero però nel frattempo e andiamo alla questione della Corea del Nord. La prima notizia arriva dalla BBC online, che ci riferisce del racconto dell'equipaggio di un volo della Cathay Pacific che ha visto il 29 novembre scorso il missile balistico intercontinentale lanciato dalla Corea del Nord mentre rientrava nell'atmosfera, e a quanto pare avrebbero visto anche l'esplosione. Intanto iniziano le esercitazioni mai massicce come quest'anno, quelle congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Simulazione di guerra aerea dai tempi della fine della guerra di Corea nel 1953. Oltre 230 aerei da combattimento simulano da oggi nei cieli della penisola coreana attacchi mirati a obiettivi di terra nordcoreani, come basi per il lancio di missili o bunker per i test atomici. Dalle basi aeree in territorio giapponese sono decollati i gioielli della US Air Force, i caccia F-22 e i caccia bombardieri F-35, mentre dalla base Andersen dell'isola di Guam sono arrivati i bombardieri strategici B-1 a unirsi alle forze aeree sudcoreane. È un altro severo monito alla Corea del Nord, che segue le recenti gigantesche operazioni aeronavali nel Mar del Giappone con 3 portaerei americani a propulsione nucleare. I mass media di Pyongyang hanno commentato duramente quelle che definiscono prove di invasione che portano il mondo sull'orlo di una guerra atomica. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. Una scossa di terremoto nel centro Italia torna a spaventare le popolazioni già colpite dal sisma. Nessun danno finora accertato, ma tanta paura tra gli abitanti di un territorio già messo a dura prova. La scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata a 00:34, epicentro 3 km dalla cittadina laziale di Amatrice, rasa al suolo dal sisma del 24 agosto 2016. Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, una replica della sequenza ancora in corso. Il sismologo Alessandro Amato. Negli ultimi mesi c'era stato un sensibile calo dell'attività, però la sequenza è ancora in corso, anche se con terremoti più piccoli. Lo scenario più probabile è che prosegua il calo, ogni tanto ci sarà qualche terremoto un po' più forte. Per ritornare al livello di fondo, quindi per dire la sequenza per il momento almeno è conclusa, ci vogliono almeno 2-3 anni. La scossa è stata avvertita nettamente dalle famiglie che alloggiano nelle casette d'emergenza in alcune zone della capitale, mentre chi era tornato nelle case ha passato la notte in strada. Quando stiamo per dimenticarci arriva un'altra scossa, quando ci organizziamo si ricomincia da capo, ha commentato il sindaco di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E Anna Marino ha intervistato Stefano Petrucci, che è il sindaco di Accumoli. È fastidioso, oramai stando nelle strutture abitative d'emergenza non è che possiamo avere timore di danni o di pericolo per l'incolumità, però è un continuo ricordare l'evento dello scorso anno. Adesso sotto Natale, come avete vissuto questa notte? Siamo consapevoli di essere al sicuro, anche perché fuori c'è neve, è freddo e è solamente, ecco, che non ci lascia un attimo. La tranquillità non si riesce a trovare. La ricostruzione comunque deve essere con tutti i crismi, quindi scosse di questa entità non destano problemi, non desteranno, non devono destare. Dovremmo, penso, ricostruire nella consapevolezza che questi eventi saranno di normale corso. Tempi di ricostruzione che vi hanno prospettato quali sono? Per fine anno ci verranno restituiti gli studi di microzonazione e da lì inizierà il percorso, diciamo, condiviso anche con la popolazione per quanto riguarda le eventuali perimetrazioni dei centri urbani. I fondi stanno arrivando? I fondi ci sono, perché comunque una legge impostata con la presentazione dei progetti, l'accensione dei mutui, cassa depositi e prestiti da parte dello Stato, quindi non è che c'è un fondo stanziato, il fondo è fino a esaurimento dei progetti. E veniamo alla pagina politica, iniziando dalla sinistra e dal centro-sinistra. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, Simone, Matteo Renzi ne è convinto, a comandare la nuova sinistra Liberi e Uguali sarà Massimo D'Alema. Il segretario PD lancia la fonda all'indomani della kermesse di Pietro Grasso alla convention rossa e si litiga sul voto utile per Renzi. Votare la cosa rossa è un favore a Salvini o Berlusconi? Un elettore di sinistra farà fatica perché sa che fa vincere il centrodestra. Il vero voto utile è per noi, afferma invece il presidente del Senato, mentre il leader di MDP Roberto Speranza professa ottimismo. Non ci candidiamo per partecipare ma per vincere. Sfideremo il PD collegio per collegio. Renzi ha finito le idee per l'Italia ed è ossessionato da D'Alema. Dal PD a replicare lo stesso Renzi. Il partito ha superato la fase delle divisioni. Ormai è ufficiale, D'Alema è altrove. Nel centrodestra lo sentiremo poi da Vincenzo Miglietta, mentre ricordiamo sempre nel centro-sinistra che Michele Emiliano vede di buon occhio la candidatura di Grasso, perché dice ha una grande leadership ed è contento che abbia acquisito un ruolo così importante. A te, Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito, che di fatto ha già fatto il lancio di Vincenzo Miglietta, che adesso ci fa un po' un racconto di quello che succede invece nel centrodestra. Tra l'altro stamattina abbiamo avuto ospite Giorgia Meloni. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Centrodestra, Simone, alle prese con la leadership interna e di fatto sui criteri che porteranno a pesare le varie componenti per assegnare poi i collegi in vista del voto di primavera. Silvio Berlusconi non ha dubbi allora nel definire il suo partito la forza trainante del centrodestra. L'ex premier, che da giorni focalizza i suoi attacchi contro il Movimento 5 Stelle, prova comunque a smorzare le tensioni interne spiegando che le differenze di linguaggio e di stile ci sono, ma che sui temi importanti c'è una comunanza di intenti. Oggi la Meloni, Fratelli d'Italia, però rilancia e, forte della rielezione alla guida del suo partito, si candida alla guida del paese e del centrodestra. Quanto ai collegi, la Meloni, dai microfoni, lo ricordavi, di Radio 24, propone le primarie. Sentiamo allora questo passaggio. Non mi interessa i collegi, il numero dei collegi, ne parleremo, per carità, e ognuno vedrà più o meno riconosciuto, immagino, il proprio peso specifico. Mi interessa che la selezione avvenga non su egoismi di partito, soprattutto su collegi uninominali, ma diciamo nel modo più meritocratico possibile. Io ho anche proposto le primarie di collegio, che secondo me sarebbero la soluzione migliore. Il capitolo Lega, poi Salvini, che denuncia oggi minacce su Facebook, ribadisce la volontà di unire il centrodestra, ma con confini ben precisi che non prevedono, spiega, l'ingresso dei cosiddetti cacciatori di poltrone che hanno governato e stanno governando con la sinistra. In chiusura, Simone, il Movimento 5 Stelle, saremo forza di governo, dice Di Maio, che esclude però l'ipotesi di un appoggio ad un governo del Presidente. E da Roma è tutto, linea allo studio. E veniamo all'incontro in programma per il contratto degli statali. C'è una norma antimolestie che prevede il licenziamento nel nuovo contratto degli statali, da domani sul tavolo di confronto tra sindacati e ARAN. La regola è chiara: per chi in ufficio sarà responsabile di molestie sessuali gravi scatterà il licenziamento. Le sanzioni sono comunque graduate, per cui in prima battuta per il dipendente è prevista una sospensione dal servizio e dalla retribuzione che va dagli 11 giorni ai 6 mesi, ma se il molestatore è recidivo perderà il posto. Il licenziamento è previsto anche per corrotti e corruttori, ossia per chi prende e offre regali sopra 150 euro in cambio di altri favori. Le novità sono state inserite in un capitolo specifico del contratto dedicato al codice disciplinare dei dipendenti pubblici. Dopo 8 anni senza il rinnovo del contratto, domani si entrerà nel vivo della trattativa tra sindacati e ARAN, l'agenzia pubblica che si occupa della contrattazione. L'obiettivo è chiudere al più presto, esaminando prima la parte normativa per poi concentrarsi sugli aspetti economici, con aumenti di 85 euro mensili, ma per questo bisognerà però attendere l'approvazione della manovra. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. Oggi si sceglie il nuovo presidente dell'Eurogruppo. A Lettonia, a Lussemburgo, sarà uno di questi paesi ad aggiudicarsi la presidenza dell'Eurogruppo, l'organo che riunisce i ministri delle finanze dei 19 paesi della zona euro. Il 13 gennaio scade infatti l'incarico dell'olandese Dijsselbloem, il laburista rigorista nominato nel 2013 e confermato nel 2015. I candidati alla successione sono due socialisti, il portoghese Centeno, gran favorito, e lo slovacco Casimir, e due liberali, la lettone Rajcenė Zola e il lussemburghese Gramegna. Ha rinunciato l'italiano Padoan, così il ministro entrando alla riunione. L'Italia appoggerà il candidato ufficiale del Partito Socialista Europeo, cioè il collega Mario Centeno. Per essere eletto, il nuovo presidente dovrà avere 10 voti su 19. La poltrona è ambita, poiché, anche se con valore informale, l'Eurogruppo discute su bilanci, riforme, piani di salvataggio, come quello di Atene, arrivato alla terza revisione. Ricordiamo altro appuntamento cruciale in giornata tra il presidente della Commissione Europea Juncker e la premier britannica May, ultima occasione, secondo Bruxelles, per trovare un accordo sulla Brexit. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A chiudere, andiamo allo sport. Eh sì, lo dico agli ascoltatori che hanno scritto prima, tra un attimo parleremo anche del Milan, però fateci iniziare non dal calcio per una volta. Iniziamo dai nostri ragazzi che sono in Messico. Dario Ricci, ciao, buongiorno. Eh sì, buongiorno, davvero arrivano belle notizie dai mondiali di nuoto paralimpico. Ricorderete forse che questa manifestazione era stata rinviata proprio in seguito al recente terremoto che ha devastato alcune zone del Messico e anche la stessa capitale, Città del Messico. Ebbene, c'è una pioggia di medaglie che sta arrivando da quella piscina per gli azzurri, e devo dire anche una piccola nota d'orgoglio per noi del Sole 24 Ore, perché tra i medagliati, finora un argento e un bronzo, c'è anche Simone Barlam, che è il figlio del nostro collega Riccardo, che è autore tra l'altro dello splendido documentario I pesci combattenti, relativo proprio al nuoto paralimpico. Quindi anche noi ci prendiamo un pezzetto di medagliuccia, dai. Sì, un pezzetto di medagliuccia, e appunto e complimenti, un grande... soprattutto a Simone, sì, e Riccardo. A Simone e Riccardo. Allora, Dario, veniamo al calcio invece. Qua ovviamente scena dominata dal Milan, e poi tra un attimo ne riparleremo con un commento di Dario Ceccarelli, e dall'Inter. Eh sì, perché insomma abbiamo detto più volte, una Milano a due facce, un Inter che vola. Ieri più di 30 tiri contro la porta del malcapitato Chievo, e 5 sono entrati nel sacco. Sacco, e sabato poi c'è il Derby d'Italia, che però è una formula edulcorata per dire che insomma c'è una rivalità accesissima da veramente da tinte forti, e soprattutto anche torna a pesare anche parecchio per la classifica, perché in questo caso la Juventus sarà l'inseguitrice nella sfida di Torino contro quest'Inter capolista. Attenzione, perché Spalletti sta veramente costruendo un piccolo gioiello, sfruttando al meglio anche il fatto che l'Inter è fuori dalle coppe, quindi sta in questo momento capitalizzando quell'opportunità. Staremo a vedere, perché poi Juventus, che domani sera ha l'impegno in Champions League, deve ottenere ancora la qualificazione agli ottavi e deve farlo sul campo dell'Olympiacos ad Atene, anche se l'intreccio dei risultati è particolarmente favorevole. Tocca anche alla Roma prendersi questa qualificazione contro il Karabakh all'Olimpico. Sembra più facile, ma finché non ce l'hai in tasca, Brignoli insegna, nulla è scontato. E poi mercoledì tocca al Napoli, quella più a rischio di mancato passaggio del turno, perché non dipende solo dal suo risultato contro il Feyenoord il passaggio del turno, perché allo Shakhtar basta non perdere in casa contro il Manchester City per eliminare i partenopei e relegarli all'Europa League. Staremo a vedere, ma insomma settimana a tinte forti importante. Beh, già veniva citato il portiere del Benevento, Dario Ricci. Dunque, sentiamo il nostro Dario Ceccarelli, che cosa ci dice di questa partita. La cosa più divertente è lo sfogo di Mastella, sindaco e primo tifoso del Benevento, che ieri pomeriggio era a Parigi. Finora non mi sono mai perso una partita, aveva detto Clemente. Se vincono pareggiano, diranno che sono io che porto sfiga. In effetti, in questa domenica di streghe e sortilegi, dove il portiere del Benevento riesce a pareggiare al 94esimo dopo 14 sconfitte consecutive, il sospetto che Mastella non sia di grande aiuto alla causa sannita è venuto a molti. Ma allora cosa dovrebbe dire Rino Gattuso al suo debutto sulla panchina del Milan? Peggio di una coltellata, grugnisce Ringhio, che dice d'aver sognato sì la partita tutta la settimana, che però mai avrebbe creduto a un gol del portiere. Che mistero buffo è il calcio, pieno di sapientoni che discettano di 4-3-3, di 3-5-2, di moduli, tattiche, linee alte, linee basse. Poi arriva il tuffo di un portiere e manda tutto a carte 48. Non è stata sua l'idea. Dalla panchina mi hanno urlato «Sali, sali!». Ho chiuso gli occhi e mi sono buttato, racconta Brignoli, il castigatore del Milan che nella vita voleva essere solo Pantani e che invece verrà ricordato come una leggenda. C'era una volta un portiere che all'ultimo minuto. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo, iniziamo il nostro Giro d'Italia e iniziamo da Taranto per parlare ancora della questione dell'Ilva, perché è vero che c'è il ricorso al TAR del Presidente della Regione Puglia e del Sindaco di Taranto, ne abbiamo parlato diffusamente la settimana scorsa, ma ci sono anche i sindacati che a questo ricorso si oppongono. Tra poco. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato degli arresti per l'omicidio della giornalista maltese, dell'inizio delle esercitazioni tra Stati Uniti e Corea del Sud con 12.000 militari americani schierati, della tensione che torna nelle zone terremotate con la nuova scossa superiore ai 4 gradi nel Reatino. Abbiamo parlato, come avete sentito, anche di politica e molto di calcio. Adesso iniziamo il nostro Giro d'Italia. Iniziamo il nostro Giro d'Italia, come si diceva, da Taranto, dove è ancora ovviamente alta la tensione perché questo ricorso presentato dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dal Sindaco di Taranto contro il decreto del Governo sta di fatto mettendo a rischio, anche nelle parole dette dal Ministro Calenda, l'acquisizione di Ilva e quindi la ripartenza delle attività, il salvataggio dell'Ilva stessa. Valerio Dalò è segretario della FIM CISL per Taranto e Brindisi. Buongiorno Dalò, benvenuto. Buongiorno a voi. In una situazione particolare nella quale i sindacati si sono nettamente schierati con più o meno energia, ovviamente, contro questo ricorso della Regione Puglia e del Comune di Taranto, addirittura con un presidio che c'è stato nei giorni scorsi davanti alla sede della Regione, no Dalò? Sì, esattamente, noi ci siamo schierati contro il ricorso perché di fatto il ricorso non è, come si vuol far intendere, fare il bene della città, ma tutt'altro. Eravamo, tramite la contrattazione che si è avviata al MICE, no, in queste giornate, in questi mesi, arrivati comunque ad ottenere dei primi risultati che ora di fatto vengono allontanati. Eravamo a un passo dal poter vedere se le opere necessarie poi per avviare la copertura dei parchi minerari a gennaio sarebbero partite sul serio. E allora, quando arriviamo proprio a un tratto nel guado, che cosa si fa? Arriva il ricorso che potrebbe far saltare tutto quanto e rimettere tutto quanto in discussione. E questo non solo dal punto di vista degli investimenti e delle opere. Il vero guaio è che se non si fa ripartire lo stabilimento in quella maniera, tutte quelle persone che sono a casa da mesi, in cassa integrazione, le aziende dell'appalto e dell'indotto che non ricevono gli stipendi, e tra l'altro di queste ore anche l'annuncio del probabile non pagamento a loro delle tredicesime, non potranno vedere il riavvio delle attività. Ecco, quindi noi siamo convinti che non sia quella la strada, ma la strada sia continuare il dialogo, continuare la negoziazione che si era avviata, che è di sicuro l'atteggiamento del Presidente della Regione e del Sindaco, non è assolutamente un atteggiamento di responsabilità verso la città. Dalò, voi che sul territorio ci siete, a cosa attribuite queste scelte della Regione e del Sindaco? Perché mi è sembrato di capire, no, che nel tavolo iniziale non fossero stati convocati o fossero assenti, non si è capito bene esattamente come mai sia partita proprio in questo momento il ricorso. Far partire il ricorso proprio in questo momento rispetto a quello che poi viene rivendicato si sarebbe potuto fare prima è il chiaro esempio che è un ricorso personale per visibilità politica in visione della campagna elettorale. Perché dico questo? Noi siamo stati accolti all'interno del Consiglio regionale, dove per intervento dei capigruppo tanti lamentavano la presa di posizione personale da parte del Presidente della Regione, e rispetto al voler fare ricorso ci sono stati pochissimi interventi a favore. Ma tra l'altro la cosa più brutta che si è potuta verificare è che al momento di votare l'ordine del giorno che ne chiedeva il ritiro, i consiglieri regionali non fanno arrivare neanche il numero legale perché il voto sia valido. Ecco, abbiamo anche contestato l'atteggiamento del Partito Democratico all'interno del Consiglio regionale, che ha dichiarato di non essere assolutamente in grado di votare l'ordine del giorno, lasciando così di fatto un atteggiamento pilatesco, nel senso proprio di non volersene interessare. Ecco perché, diciamo, io comprendo chi mi dice che ormai le scadenze che erano state date per le opere sono arrivate e ci siamo, ma noi siamo a un guado, adesso noi dobbiamo decidere, siamo un bivio. Le scadenze sono passate, ok, ma oggi siamo a dicembre 2017 e ciò che dobbiamo decidere è o quelle scadenze le rendiamo fattive, e quindi fra 30 giorni partiamo e quei parchi finalmente li copriamo, noi ci attacchiamo al cavillo burocratico che è comunque sono scadute, ma allora qualcuno dovrà dichiarare che gli intenti su Ilva sono altri. Ma nel frattempo, mi faccia dire questo, nel frattempo i cumuli rimangono là, quando c'è vento i bambini non vanno a scuola e comunque adesso la situazione non migliora. Quindi per migliorarla, cosa se non le opere bisogna fare? Brevissimamente, avete in mente altre iniziative di lotta, di protesta? Noi adesso partiremo, notizia che stiamo dando ai lavoratori proprio in queste ore, faremo anche un volantinaggio domani, noi partiremo con le assemblee in fabbrica perché dobbiamo spiegare bene alle persone cosa sta succedendo e nel frattempo dobbiamo raccogliere qual è l'esito del ricorso, se verrà accolto, ma soprattutto se nel frattempo si avrà la volontà di ripartire con la negoziazione al MICE nonostante la pendenza del ricorso al TAR. Ecco, ci sono queste due date temporali che per me sono fondamentali per proseguire, per capire come proseguire. Vedremo come andrà. Grazie Valerio Dalò, segretario della FIM CISL delle province di Taranto e Brindisi, e abbiamo in linea con noi un'altra sindacalista che è Cinzia Bernardini, segretario generale FILCAMS CGL Toscana. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti voi. E l'abbiamo chiamata perché? Perché era prevedibile. Inizia dicembre, si avvicinano le date delle vacanze, si avvicinano i momenti nei quali i negozi, i supermercati, i grandi centri commerciali vogliono tenere aperto anche il 25, il 26 e in tutti i giorni di festa. E come da schema classico c'è la protesta dei lavoratori. Avete deciso di scioperare, Bernardini, mi sembra di aver capito, quantomeno a Firenze? Noi faremo uscire un comunicato, tra l'altro anche un unitario, nel quale appunto denunceremo, e lo so, sembra quasi una cosa rituale, ma assolutamente no, non lo è. In previsione delle festività anche così importanti, perché Natale, Santo Stefano, il primo dell'anno, alcune aziende, in Toscana soprattutto, è uno dei primi anni, hanno comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori che saranno aperte. Noi proclameremo intanto l'astensione, sì, perché per fortuna negli ultimi due anni molte sentenze, compresa la Corte di Cassazione, ha stabilito che il lavoro festivo, in quelle festività indicate e individuate, sì, dal contratto nazionale, non è un obbligo. Sì. E quindi astensione dal lavoro per queste festività. Allora, più, li dico io i nomi perché lei non, sì, li ha detti. Si tratta di Carrefour, Zara e Coin. Zara e Coin per il giorno di Santo Stefano. Esatto, sì. Carrefour dalle 8 alle 12 del 25 dicembre. È vero anche però dall'altra parte che si può dire, Bernardino. Bene, loro... Tengono aperto perché evidentemente gli conviene dal punto di vista economico, e la convenienza dal punto di vista economico è anche una convenienza per i lavoratori, perché vuol dire che l'azienda regge meglio, no? Invece noi diciamo che ormai è dal 2012 che c'è il decreto, se vi ricordate tutti, Salvi Italia del governo Monti, che aveva promesso H24 365 giorni all'anno, dicendo questo porterà più vendite, più assunzioni. Oramai ci sono tutte le statistiche, non solo quelle di parte sindacale, ma anche di parte datoriale, dell'Istat, che dicono che il settore del commercio, invece, soprattutto nella grande distribuzione, ha visto restringere i consumi e ha visto restringere anche i livelli occupazionali. La cosa invece che è emersa è che, siccome c'è crisi e le aziende aprono le procedure di licenziamento, lo vogliamo ricordare? Carrefour, Auchan, ma anche a volte... anche qualche cooperativa, penso a Unicoop Tirreno, aprono le procedure, poi si riesce a chiuderle senza salvando i posti di lavoro. Ma questo cosa sta a significare? Che non si è creato quello che si era promesso, anzi, sì, sono peggiorate le condizioni, sì, di lavoro, diciamo, perché glielo dico, andare a lavorare, sì, a Natale è praticamente, da un punto di vista economico, uguale come o poco più, cioè circa €1-1,20 di differenza andandoci un lunedì o un martedì. Noi diciamo, c'è una legge che giace in Parlamento, sostenuta da 500.000 firme, al quale anche la FILCAMS, sì, la CGIL e CISL e UIL hanno contribuito. Mettiamo mano a questa cosa. Ma è possibile che solo il commercio sia un settore senza regole, nel quale in poche festività all'anno si può stare con le persone e la propria, sì, famiglia, i propri cari? Ma faccio notare una cosa. Mi scusi, io sorrido perché qua a Radio 24 lavoriamo il 25, il 26, sì, il 31 sera, il primo, eccetera, cioè, quindi insomma. Perfetto, però lei mi paragona, e io non lo voglio fare perché non lo credo, certo. Un ruolo così importante che ha l'informazione, quello di far conoscere, dire ai cittadini cosa sta succedendo con il consumo. Io credo che la differenza sostanziale sia qui. Noi siamo consapevoli che ci sono tantissime categorie di lavoratori, sì, che danno un servizio essenziale. Ma magari ci saranno anche dei lavoratori che hanno voglia di lavorare a Natale e Capodanno, o no? Ma senta, se la voglia dei lavoratori è perché quella è l'unica fonte di reddito, perché magari non riescono a trovare un lavoro, perché magari vengono chiamati a chiamata solo quel giorno o la notte, con delle condizioni di lavoro... O magari non gliene frega niente del Natale, perché nella vita ci sta, eh? Ma senta, io ora un pochino d'esperienza ce l'ho, venendo anche da questo settore. Io, prima di fare questa attività, che è comunque sempre temporanea, ho lavorato quasi 20 anni in un supermercato. Io non ho ancora trovato un lavoratore che è contento di lavorare a Natale. Noi diciamo, ci sono alcune festività, secondo noi, anche nella società immatura, la decisione di provare a individuare alcune festività nel quale star chiusi, nel quale star chiusi. Va bene, allora la vostra posizione è chiara, Bernardini, devo chiudere perché sennò, guardi, mi ammazzano, perché dobbiamo andare in pausa, devo chiudere. Io la ringrazio, la vostra posizione l'avete espressa. Qualche ascoltatore ci scrive: guardate che in realtà no, non è vero, perché i dati indicano che in realtà crescono i consumi, e andremo a verificare anche questi dati. Lei dice che la situazione è diversa, andremo a verificare anche questi dati. Non temete che di qui a Natale ci torneremo su questa vicenda, perché non siete i soli, non sono i soli che protestano. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, e poi forse ci rimangono una trentina di secondi prima di America 24. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: una decina di arresti per l'omicidio della giornalista maltese avvenuto lo scorso ottobre. Iniziano le esercitazioni Stati Uniti Corea del Sud al confine, 12.000 militari americani. Torna la tensione nelle zone terremotate, scossa superiore ai 4 gradi nel Reatino. Calcio, Inter in vetta e il Milan pareggia. Nuoto paralimpico, l'Italia già a 13 medaglie. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Oh, molti ascoltatori ci scrivono: ma ragazzi, guardate il lavoro a Natale, non si sta discutendo se fosse una buona scappatoia contro il pranzo per con i parenti, cioè vado a lavorare a Natale così me li tolgo dalle scatole. Non si stava parlando di questo. Comunque avremo modo di tornare a parlarne sicuramente prima di Natale. Intanto Mario Platero.